diciamo che la legge, che è la legge 185 del 1990, che vieta l'esportazione di armi a paesi in conflitto armato, però è formalmente osservata, perché la norma della legge dice questo: è vietata l'esportazione di armamenti o anche il trasferimento, quindi non è che deve essere una vendita, possono essere anche dei, appunto, dei regali, delle donazioni. Comunque è vietata l'esportazione di armamenti verso i paesi in conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ecco qui il punto: fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare previo parere delle Camere. E allora questo decreto è stato adottato, diciamo, con questa nota: previo parere delle Camere, cioè facciamo il decreto per l'invio di armi e però prima consultiamo il Parlamento, che poi è stato appunto consultato, che sostanzialmente ha votato a favore, tranne, diciamo, una piccola parte di astenuti e una parte contraria. Il problema però è di sostanza, non è soltanto di forma, cioè quindi la forma è osservata, la sostanza, perché questa legge dice questo? Perché è chiaro a tutti che quando c'è un conflitto, se gli armamenti alimentano questo conflitto, si dice: ma qui stiamo inviando armamenti a una parte che è in difficoltà, che si sta difendendo da un aggressore. Verissimo, però questo pone anche altri due problemi. Innanzitutto che proprio l'invio di armamenti in qualche modo porta l'Italia ad essere parte del conflitto, non direttamente impegnato con ancora dei militari, ma sicuramente impegnato a fianco di una nazione, e questo è tutto da vedere se aiuta o non aiuta appunto la causa della de-escalation militare e del ritiro delle truppe russe. A me pare proprio di no. Ma l'altra cosa è che quando si inviano armamenti in queste zone, lo abbiamo visto anche in altri casi, per esempio quando furono inviati in Libia a Misurata, fu davvero poi difficile controllare queste cose, perché quando si inviano questi armamenti poi non si sa più dove vanno a finire, e soprattutto se parliamo in modo particolare di mitragliatrici, buona parte sono questi, ci sono anche dei razzi Stinger, degli RPG, insomma dei razzi anticarro, ma soprattutto mitragliatrici e questo tipo di armamenti, e devi anche sapere davvero in quali mani finiscono, perché noi sappiamo che per esempio tra le forze appunto militari ucraine sono inglobati anche quelle forze dei nazionalisti della destra, dei neonazisti, fanno parte di quelle forze. Ecco, io non vorrei che le armi italiane andassero a finire a questo tipo di personaggi, quindi inviare armi non è mai una buona soluzione. In questi giorni si è parlato anche del trattato ATT, che cos'è? È il trattato internazionale sul commercio delle armi. Il trattato vieta l'esportazione di armi quando ci sono degli embargo. Attualmente c'è un embargo verso l'Ucraina, ma dell'Unione Europea è molto blando, appunto serviva per non inviare armi per la repressione interna, non c'è un embargo a livello internazionale. Si dice appunto che è vietato l'esportazione di armi non solo quando c'è un embargo, ma anche quando si sa già, è prevedibile che appunto queste armi possono essere utilizzate appunto per la repressione interna o per commettere gravi crimini a livello umanitario, genocidio e cose di questo genere. Ora, se le armi vengono inviate, diciamo, a scopo difensivo, raramente, ecco, non rientrano in generale in queste clausole che sono giustamente messe nel trattato internazionale. Ma però c'è un altro problema di cui nessuno invece parla, penso di essere stato l'unico a sollevarlo, ed è più importante, e cioè il fatto che in questi anni l'Italia ha continuato a inviare armamenti alla Russia, e praticamente dal 2010, anzi dal 2011 col governo Berlusconi, che furono incominciati ad inviare praticamente 250 blindati tipo Lince, e non c'era in quel tempo nessun divieto, ma addirittura sono stati inviati altri 83 di questi blindati alla Russia nel 2015, quando già nel 2014 era stata adottata da parte dell'Unione Europea un embargo di armi verso la Russia. E questo pone un grande problema, e cioè l'unica questione, l'unica cosa che sembra che l'Italia e i paesi europei, perché non era solo l'Italia che li ha inviati, ma anche altri paesi europei come la Francia, ma la stessa Germania, l'Austria e altri paesi, l'unica cosa che i paesi europei sembra che sappiano fare è quello di inviare armi. Prima ai russi e adesso agli ucraini. Qui dobbiamo porci un attimo un problema di che cosa significhi davvero sostenere anche la resistenza in questi paesi quando sono appunto minacciati o come in questo caso sono aggrediti. Continuare a inviare armi all'una e all'altra parte, a seconda, diciamo, della convenienza economica e politica, aiuta soltanto le industrie militari, e che sono quelle che sostengono tutte le guerre. Non è un caso che proprio in questi giorni abbiamo visto che tutte le industrie militari mondiali, a cominciare da quelle americane, ma anche quelle italiane, soprattutto soprattutto Leonardo, stanno guadagnando in borsa. Leonardo non ha, le azioni di Leonardo negli ultimi 3 anni non hanno mai toccato il livello di 8,33 euro per azione, il valore dell'azione, valore più alto. Questo è l'effetto della guerra e tutti lo sanno benissimo.